oh! Stalker. Jodete. Yo me diré. Jodete. Yo me diré. Yo me diré. Yo me diré. Grazie. Stalker, grazie a tutti. Nico, Paghetto, tutti gli organizzatori, anche tutti i videi. Numero 6. Come sono piccoli gli uomini, che mangiano, dormono, bevono, s'accoppiano e poi vanno all'altro mondo. Soltanto chi come noi è costretto ad ascoltare ogni giorno, nel segreto del confessionale, i racconti che gli uomini fanno delle loro sporcizie, delle loro nequizie, può esprimere un parere sul genere umano, sulla futilità delle cose terrene, degli stati, dei regni, e sulla vita nascosta dentro le case. Se io dovessi dare un mio giudizio complessivo e mettere una mia sentenza, io volentieri invocherei il diluvio universale ed emetterei serenamente una sentenza irrevocabile di morte generale. Thank you. a tutti. Salve. Andre, nel... Grazie lo stesso. Stalker, grazie ancora a tutti. Grazie a tutti, ultimo pezzo e ce ne abbiamo. Oh, oh, c'è, ci sono di nuovo. Pollyanna, Stalker. Thank you. Stalker. Dopo di noi Gigio. Oh oh. Belli, ci sono piaciuti.